Abbiamo appena ascoltato l'orrore di De Luca, secondo me, anche se per carità il governatore del mondo è sempre il governatore del mondo e ci piace anche il piglio, anche quando non siamo d'accordo ci piace comunque il piglio polemico, ci piace, qui parlo in terza persona, anzi in quarta, in quinta, in sesta. Sì, ma non stava scherzando De Luca, ha sbagliato Salvini, non scherzava, diceva... Cosa? Non faceva ironia sui morti, Vuoi difendere De Luca anche su questa cosa qua? Adesso, no, cazzarava quei politici tutti di destra e di sinistra che dicevano Milano non si ferma e quant'altro. Ho capito, ma se tu fai il gioco di parole, non se la prendeva Milano non si ferma morti. E poi si sono fermati a contare i morti, l'avesse non detto qualcun altro. Non se la prendeva in alcun modo con i morti. Ma cercate di essere precisi. Ma non dire cazzate, dai, su, adesso vuoi negare anche che c'era la perculata attraverso i morti? Cioè Non fare il furbo, rimettetemi il soldo della propaganda della bestia salviniana. Ma che c'entra Salvini? Che cazzo me ne frega di Salvini a me? Ti abbiamo scoperto e domani mostreremo i bonifici da dove arrivano. Abbiamo le carte dei finanziamenti di Steve Bannon direttamente. Steve Bannon, ti porto via tutto. Vai, De Luca. Quando noi chiudevamo in altre parti d'Italia si facevano iniziative pubbliche, Milano non si ferma, Bergamo non si ferma, Brescia non si ferma, poi si sono fermati a contare le migliaia di morti, non le centinaia, le migliaia di morti. Si utilizza, per me è sempre il numero uno, bisognerebbe inventarlo, però utilizza la vicenda, non si ferma, si ferma per fare casino. No, peraltro mi è arrivata adesso una foto da parte di un importante banchiere, ma insomma, che mi dice: scupa la zanzara, Cruciani non mette la mascherina a Milano, e mi gira questa foto in cui lui si è fatto il selfie con la mascherina, ci sei dietro tu senza mascherina in centro a Milano. Adesso te la giro e nelle prossime ore... Ma non è obbligatorio, nelle prossime ore lo pubblicherò. Provate a immaginare quello che sarebbe successo se Codogno fosse stato in Campania anziché in Lombardia. Non avremmo potuto aprire bocca per altri 200 anni in Italia. Non è andata così e oggi camminiamo a testa alta in Italia, tutti quanti. Posso dire una cosa però a De Luca, che va benissimo perché è sempre il numero uno, sarebbe stato difficile dire Napoli non si ferma, perché effettivamente tutta la politica italiana non è andata a Napoli col timore che si fermasse Napoli, è andata a Milano per dire Milano non si ferma, perché se si ferma Milano è un problema. Se si ferma Napoli, puntini, puntini, puntini, no? È evidente che i politici sono andati su. Eccolo. Vero che c'erano più casi. Se si ferma qualcosa qui è un problema. Se si ferma giù, non dico che non succede un cazzo, ma insomma, dai. Non voglio dire che non succede un cazzo. Poi De Luca, vista la mala parata di ieri, che cosa dice? Avanti. Trovo vergognoso quello che è stato fatto nella giornata di oggi. Che è successo? Mi è capitato di dire a Sapri una cosa banale, che è stata detta da tutti in questi mesi, che cioè in alcune realtà d'Italia sono stati presi dei provvedimenti con qualche ritardo. Sì. Questo è tutto. Sono riusciti a fare una speculazione vergognosa, indegna, sciacallesca, sulla base di una banalissima osservazione oggettiva fatta da tutti in Italia. Vi sfido a trovare un momento nel quale non si sia espressa da parte nostra solidarietà. Dunque sono veramente degli sciacalli quelli che hanno messo in piedi sul nulla un tentativo di speculazione. Sciacalli, siete degli sciacalli. A chi si rivolge secondo te? Salvini, eccetera, eccetera. Allora, sì, la vicenda a tutta la banda. Sì. Tutta la banda. La vicenda dei carabinieri. La vicenda dei carabinieri. Ti aspettavo al varco. Non hai detto una parola nella trasmissione. Ti aspettavo al varco. La vicenda dei carabinieri è iniziata non adesso. Non hai detto una parola. È iniziata adesso. Comunque fa effetto se allora, mi dici così. Me... Non hai detto una parola. Allora, spaccio, torture, corruzione, eccetera. Sì, eccetera. Tutto da provare, ovviamente. Perché... Eccolo qua. Ecco il garantista. Improvvisamente garantista. Sto dicendo. Ci sono, certo, tutto da provare, sei militari arrestati. Certo, assolutamente. Picchiavano le persone dentro la caserma, dovrebbero avere il doppio della pena, fosse vero, il doppio della pena. Spacciavano droga, escort, champagne, però, come, sembra una puntata della Zanzara, mannaggia, con aspetta una roba pazzesca, vergognosa. Ilaria Cucchi dice che sì, parlare di mele marce non è così. Parlare di mele marce non bisogna parlare di mele marce. È un sistema. Ma sistema di infatti che? Il sistema è che i carabinieri fanno un sistema. È successo troppe volte che per anni si sono coperte queste cose. Stai dicendo che i carabinieri stai infangando i carabinieri. Non esiste un sistema carabinieri. Esistono le singole persone. Stasera squaderniamo tutto. Ma sti cazzi di quello che succede stasera. Sì, sti cazzi. Con la Ilaria Cucchi, con l'avvocato Anselmo, giù, Cucchi. Il fatto che si parli di mele marce lascia un po' perplessi. È un sistema che evidentemente non funziona. Un sistema, che vuol dire un sistema? Che vuol dire? Vuol dire che è successo troppe volte. Carabinieri e poliziotti mi stanno scrivendo. Parenzo, vergogna! Parenzo, vergogna! Vergogna! Ma quale sistema? Ma chi se ne frega? Ma chi cazzo è? Ma chi se lo incula? La catena di comando bisogna vedere. La catena di comando. E voi sapete che io ho depositato nei giorni scorsi una denuncia. La Zanzara. Grazie! Zanzarosi, giornata difficile, eh? Chiamate l'824 0024 o whatsappate il 393 7171 701. Scoprirete che potrebbe anche andare peggio. Cioè, sono in autostrada, ho davanti a me due camionisti, probabilmente entrambi froci. Uno sta superando l'altro, penso che nessuno dei due supera gli 80 km orari, io sono bloccato dietro questi stronzi. Ecco, si sono tolti, lo sto superando, abbasso il finestrino. Miserabile! Oh, senti, il camion. Come fa, Edrombe? Come fa? Capezzoni. Ok, sei incredibile, Davide, sei incredibile. Ti accodi alle cose più, più banali, cioè il sistema dei carabinieri. Banale, esistono banale. Le singole persone che commettono certo, dei reati, punto e basta. Ma questo ci mancherebbe non altro, è che ma i carabinieri, scritto molto bene c'è un sistema Carlo ancora, Bonini ma chi se ne frega? Non ce no, ne frega un cazzo! Il ragionamento è completamente diverso. Ti vabbè. Cito quattro casi. Sì. Il G8 di Genova. Ma cosa c'entra? L'assassinio di Cucci 2009. Cosa il caso Marrazzo 2009. E che c'entra? Gli episodi di violenza sessuale a Firenze 2017. Ma questo è pazzo. Massa Carrara 2018. Giù. Fammi sentire Crosetto contro la Fusani. Vai, Crosetto contro la Fusani sui soldi che verranno spesi dove, come, quando dall'Europa all'Italia. Vai. Non mi interessano i 20 miliardi, so benissimo che arriveranno 20 miliardi a gennaio. Quello che vorrei spiegare a lui e alla Fusani è che da adesso a gennaio ci sono 6 mesi, sì, che per le persone che ci sono qua in diretta sono pochissimi. E infatti l'ha preso il MES, così. Quelli che muoiono di fame, quei 6 mesi sono esiziali. Prendiamo il MES, prendiamo i soldi del MES, subito, sono erogabili subito. Riuscite a far perdere la pazienza anche a una persona come me, perché siete più ideologici di quelli dall'altra parte. va benissimo, hai vinto tutta l'Europa, 20 miliardi a, a gennaio sono importantissimi. Parliamo da adesso a gennaio della gente che muore dal fame. Ve lo volete mettere in testa che non è una guerra tra centrodestra e questo governo, ma di gente che muore di fame? A me non frega niente dei voti dei sovranisti, mi frega della gente che sento tutti i giorni chiamarmi e dirmi che non ce la fa a sopravvivere e a mantenere i figli. Buona. Mamma mia, come combatte il signor Crosetto. Dice: aspetta, lascia perdere i soldi che arriveranno, come e quando. Oggi, cosa si fa oggi? Attacca Crosetto, ha ragione. Invitalo lì dalle tue parti. Invece non lo fai. Vergogna. A proposito di carabinieri, signor Pappalardo, tu dici, ecco, che non fa un buon servizio ai carabinieri. No, ma che c'entra? No, tu no, ecco, se citi Pappalardo, i carabinieri per fortuna non sono Pappalardo, questo bisogna dirlo in una giornata come questa, certo. Mi hanno attaccato pure sui lumi, scrivo un libro dove immagino di incontrare gli alieni e mi attaccano. Mamma, ma vergognate, questo per colpa di quei quattro cialtroni, di quei due cialtroni, Parenzo e Cruciani, due, della Zanzara. Siete due meriti cialtroni, ancora cominciate a scrivere. E a occuparvi di noi. Fatelo. State attenti. A ottobre potrebbe cambiare il sistema. Cosa? Potrebbe cambiare a ottobre il sistema. E noi chiederemo alla magistratura, voi due, per chi lavoravate? Ancora? Per chi lavoravate, Cruciani e Parenzo, che coprite di fango e di parolacce il nostro movimento e i nostri esponenti. Cruciani e Parenzo, continuate su questa strada. Alla fine vedremo se ci sarà un magistrato che vi indagherà. Per ora no, perché i magistrati li proteggono tutti. Però potrebbe arrivare un magistrato che dica: ma questi della Zanzara, per chi lavoravano? Per chi lavoravano? Francesco da Pavia, vai Francesco, dimmi. Ciao David, ciao Cruciani. Dimmi Francesco. Buonasera, allora, io volevo raccontare un aneddoto che a me è appena successo. Che è successo? Diciamo un po' di tempo fa. Io sono un automobilista un po' distratto, quindi a volte diciamo che faccio qualche piccolo incidente urbano che coinvolge anche terze parti. Allora, settimana scorsa ho investito un africano. Sono seduto dalla bici, mi ha guardato, mi ha sorriso e quasi si è scusato di questo. Sono sceso perché pensavo si fosse fatto male. Tutto a posto, se n'è andato. Vabbè, allora. Qualche tempo fa ho investito un tipo di Pavia, tutto con la tutina, il caschetto rosa, i leggings. Cazzo, non l'ho neanche toccato. A te capita spesso di investire. Ti capita spesso di investire le persone. Vabbè, d'accordo. Perché E questo qui no, mi ha bestemmiato contro, mi ha urlato tutto addosso. Tutto normale. Allora, perché c'è una differenza tra l'africano gentile e il lombardo cattivo, diciamo. Tutti quelli che ti chiamano, quelle vecchie rincoglionite che ti chiamano dicendo: ho paura che i negri mi stuprano, ho paura. Vieni da Pavia, investite qualcuno di Pavia. E poi vediamo chi c'è da avere paura. Ma che cazzo? Non me ne voglio, ma, nei miei amici, vabbè. Ma cosa c'entra? Il problema sei tu che investi le persone, non sono questi qua che reagiscono diversamente. Massimiliano da Rovigo, vai Massimiliano, dimmi. Oh, buonasera a tutti. Dimmi. Vi ho chiamati perché volevo ho fatto l'addio al celibato, la festa più bella che un uomo possa fare. 31 anni. E purtroppo è successo che con 8 amici siamo andati vestiti da romani, io facevo Gesù con una croce fatta da un mio amico falegname. Sì, allora? È scappato l'asciugamano e una signora ha visto le mie parti intime. Niente di grave, poi che è successo? Mi hanno arrestato, ho fatto la notte in guardiola. Ma perché cosa? Scusa, ti hanno arrestato per che cosa? Atti osceni, sì, disturbo della quiete. Ma non arrestano nessuno per queste cose qua. Comunque, che è successo poi? Niente, fondamentalmente ho fatto queste 15 ore di guardiola. Perché a noi dovrebbe fregarci qualcosa di questa vicenda? Spiegami. Il fatto è che c'è stata una cattiva informazione da parte di una testata giornalistica. Ma chi se ne frega, Stefano da Cremona, non ce ne frega niente che sia stata una sera. Nulla, zero. Anzi, Aldo da Torino, meno di zero. Dimmi Aldo. Ciao, no, volevo dire, non mi sembra corretto dire che quello dei carabinieri sia un sistema. Ma è Parenzo che lo dice. Ma no, ho detto i carabinieri. Ti dovresti sistema. Vergognare. Ho detto una cosa molto più semplice. Hai detto che ha ragione la cucchia a parlare di sistema. Detto che non si può parlare di singole mele marce, no, perché anche in questo caso qui per tre anni qualcuno ha coperto questa porcheria per tre anni. Aldo, dimmi. Appunto, scusa, quindi non sono singole mele marce. Allora, questo parlato, fammi parlare un attimo, parli sempre, fammi parlare. Allora, voglio è come dire che i giornalisti vanno tutti a puttane e si fanno di bambe e fanno le feste con i trans. Ma perché Marrazzo si faceva inchiappettare dai trans. Che cazzo c'entra? No, ci ma sono migliaia di carabinieri che razza di paragone che si fanno un culo così, hanno a che fare solo ma con non c'è dubbio, ma che c'entra, è ovvio, ma è il primo a essere indignato è il comandante generale dell'arma. Parlate con il comandante Nistri, ma chi se ne frega, Marco da Milano, dai Marco, dimmi. Parlate con Nistri. Ciao, dimmi. Allora, voglio dire che stavolta ha ragione Parenzo, ma proprio la grande, ma su che cosa? Cioè sul sistema carabinieri, adesso tutti addosso ai carabinieri. Parlate con Nistri, il generale dell'arma, il comandante. Indifendibili. Fermi là, fermi là, fermi là che dopo ti richiamo. Fermo là, fermo. Proteggono quelli che sbagliano. Fermo là, dopo ti richiamo. Logica, spazio, tempo. Modul block, l'evoluzione del magazzino. Vi presenta la zanzara. Vabbè, adesso vi mando a fare in culo. Se nullo. Quel coglione di Cruciani, quel forcione di Frocciarenzo, e su c'era compri con la Longoni coglione, Ramelli, ciucciami gli uccelli, e anche il coso, lo stupratore di Boston, Poli. Affanculo ragazzi. Che squallore d'uomo che sei. Cruciani! Alla festa lì con Ciccio Formaggio. Il puttaniere che va cinese, mamma mia che schifo, ma quando ti guardi allo specchio non provi un senso di repulsione. Mamma mia che schifo. Cruciani, non fare il grande, sei un servo di merda, servo. Cruciani, andrò culo e suca, salute Catanzaro, andrò culo. Il diritto di disobbedire, ribellarci, combattere, vincere contro il male. Grazie onorevole Sgarbi. Forse dovremmo avere in video collegamento professor Meluzzi. Buonasera, Parenzo. Bravo, bravo. A settembre avevo gli ultimi esami di dottorato e io sono esattamente 5 anni che non faccio una sola sessione d'esame senza la zanzara. Per cui dovete assolutamente tornare a settembre, altrimenti avrete la mia potenziale carriera da economista sulla coscienza, perché io senza la zanzara a settembre, sotto esame, avrò sicuramente un esaurimento nervoso e non passerò mai gli esami. Per cui abbiate pietà, tornate. Sono Fabio, ciclista da Milano. Proprio oggi mica passo dall'autogrill e mi trovo un camionista che scende a petto nudo, in mutande, una roba inguardabile. È sceso col suo, cos'è, la sua vaschetta per lavarsi i piedi, come i beduini. Sono come i beduini. Sono come i beduini. Mentre poi riparto in autostrada, un altro tranquillo, col piede sinistro alzato, nel mezzo del traffico, col ginocchio appoggiato al vetro. E questi qui non sono trogloditi? Guarda, forse altro che il 90, il 95% sono trogloditi. Vittorio! Eccolo! Beh, amico mio! Parenzo, non l'hai ancora invitato? Ah sì, l'hai già invitato una volta. Molto bene. Quando no, ma tornerà. Dai 20 milioni all'anno di liquidazione, anzi 20 milioni di più all'anno. di più caro Vittorio, perché è una coppia di fatto. Sì, siamo praticamente due froscioni. Questo no, ma ho tanti difetti. Ma perché difetti, ti offendi? Ma non quello, perché? sto scherzando. L'hai chiamato difetto, come battuta. Ti condannerebbe la legge Zan, ma lo sanno tutti che stavo scherzando, ma volevo dire questo invece, siccome ogni anno passato con te equivale a 7 anni, Fai il conto di da quanti anni stiamo insieme, quindi ti chiederò un risarcimento. Ciao, billionaire. Ciao amore a Sgarbi, ciao amore a Sgarbi. Qualcuno ti dice ciao amore, Vittorio. Ciao. No, sono per strada, Santa Fonale, Venezia. Bellissima. Scusa, allora... fermati un secondo. Allora, innanzitutto possiamo dire che si può dire tranquillamente Frocio, Finocchiona, eccetera. No, perché no, sì, tranquillamente si può dire. Lo si può dire in maniera normale. Lo dicono tutti nel privato e noi lo ripetiamo qui. Senza offendere nessuno, si può dire Finocchio, Frocio, eccetera. Lo vogliamo ribadire, Vittorio, con grande forza? Beh, dipende chi lo dice. Essere prudente. Il modo migliore per dirlo è chiederlo ai titolari della condizione, in particolare il senatore Cerno. Cerno, e lo sto citando, preferisce essere chiamato Finocchio che gay, però questo non vuol dire che dobbiamo chiamarlo noi o che c'è un intento disprezzativo. Quindi se tu questa cosa la fai dire ai titolari di quella condizione, a questo punto non siamo noi a usarlo in un modo o nell'altro, ma quindi c'è un atteggiamento come di sprezzatura, che è quello di non sentirsi offeso da una condizione che una volta è checca, che una volta... Però ho capito, io ma, se... ma io lo... tu non lo dici più perché, non lo so, hai paura delle guerre e delle ho cause. Ho paura delle... di incorrere nelle penalità. Sì, in realtà io direi solo Finocchio, che ormai non si usa più perché è una formula legata a un tempo troppo remoto. Se tu dici a un bambino Finocchio non so di cosa parli. Senti una cosa, sì, ma questo... ti sei rimasto io invece dico tranquillamente Finocchio, gay, ma lo dico con simpatia, sì. Frocio, eccetera, lo dico però con grande simpatia. Però tu chiamare me, che passo per essere... dovrei chiamare Cerno, Cerno, dici tu come ti vorresti chiamare, poi proprio Cerno chiama, lui ti dirà Fassino, Finocchio, Frocia, Frociona isterica, Finocchiona, uno ha detto una volta più traforata, sei più traforata del Monte Bianco, cioè lo dicono, lo usano tranquillamente. Però e io Laura voglio... Betti, la amica di Pasolini, chiamava tutti gli amici di Pasolini al femminile, tutti. Sì, quindi, ma è nessuno. Va bene, ma perché lì c'era, ma lì era un contesto diverso, c'era una complicità amicale, no? Era un, non era denigratorio. Però era un scusami, Vittorio, sei rimasto colpito dai 20 milioni che Berlusconi ha dato alla Pascale? Beh, effettivamente questa notte mi ha colpito e ho pensato che questo non si può misurare come farebbe un magistrato, come il modo per comprare il silenzio di una testimone, ma come la generosità di un uomo che dice: io sono bene prezioso, non ci sono più, non ti faccio mancare nulla. E le ha dato in abbondanza. Sì, però 20 milioni, Vittorio, 20 milioni, 20 milioni, sono rimasto colpito, 20 milioni, ma come, cioè 20 milioni uno... meglio dargli a lei che a Bonoli, Bonoli se ne ebbe 20 per 4 anni e io... Vabbè, quello che c'è, quello è in cambio di prestazioni però... Ma non sono prestazioni più interessanti di quelle della Pascale al nostro Berlusconi. Senti, invece sei dalla parte della Ferragni, come del resto il sottoscritto, nella vicenda degli Uffizi. Cioè, secondo te non è assolutamente assurdo il fatto che alcuni hanno criticato, alcuni puristi dei musei hanno criticato la scelta, diciamo, che ha fatto la dirigenza degli Uffizi di portare là la Ferragni a fare una promozione? Le visite sono aumentate, la gente comunque è stata spinta ad andare agli Uffizi. Io non ci andrei mai perché c'è andata la Ferragni, ma c'è un sacco di gente magari che vede la Ferragni lì ed è spinta ad andare agli Uffizi. Qual è il problema? Perché alcuni rompono il cazzo su questa storia qua? No, è partito tutto da questo Montanari, quale nel suo purismo, come una vecchia zitella o un bigotto, ritiene che i musei sia soltanto per le persone che hanno preparazione o che parlano del quadro. In realtà vanno un sacco di bambini, vanno 3 milioni all'anno, di cui 2 milioni e 8 sono totalmente inconsapevoli. Quindi ha fatto un ragionamento razzista ed elitario, perché lei non va bene in quanto appartiene a un mondo incompatibile, senza sapere che il mondo dell'arte si è consumato e oggi gli stilisti sono gli artisti: Armani, Prada, Valentino. Sì, ma infatti non capisco. Non capisco dov'è il problema, cioè non capisco dov'è il problema della Ferragni, che comunque attira persone, eccetera, che approfittando di una sua, che ne so, avrà avuto il suo ritorno sicuramente. Lei è andata per fare probabilmente uno spot, quindi ha pagato. Ma potevano anche pagarla, dicevo, da Sinopan si è pagato 1,5 milioni di euro per leggere l'infinito come promozione delle Marche. Allora, se le Marche si permettono quello, gli Uffizi possono avere... Ma sì, dai. Ma cosa c'è? Dico, il riferimento più diretto è un altro, la poesia del cinema. Anita Ekberg, che era importante o conosciuta assieme alla Ferragni, ha fatto la pubblicità alla Fontana di Trevi. Qualcuno come Montanari poteva dire non doveva andarci perché non si va in acqua, c'è la multa. Hanno creato un sogno. Quello della Ferragni è a suo modo un sogno. Poi può essere più modesto, meno... Ragazzi, di cosa stiamo parlando? Cioè, i musei hanno già difficoltà a far entrare la gente, in cui c'è uno spot pazzesco. No, gli Uffizi non hanno particolare bisogno, però lei in realtà ha aperto a un fronte di persone che magari non sarebbero andate. Sì, dai, tra l'altro, il riferimento a Rita, perché lei era davanti alla nascita di Venere e l'entrata in acqua di Anita, che ho ben conosciuto, era la nascita di Denzel. Sono due cose omologhe. Quando vedo Montanari che dice «Ah, quel Fellini ha fatto una cosa che non doveva fare», è un discorso che non ha senso. Oltretutto dice «Io faccio un libro popolare». Ma chi se ne frega? Ma quale libro? Ma non è che soltanto le persone competenti devono andare in un museo. Ma sì, ma il museo è un luogo dove faccio io volevo. Certo. Ma tu hai mai scopato in un museo? Dentro un museo, sì. Pure. Nel bagno, se mai. No, però io vorrei i musei, no, però tu vorresti musei gratis, però hai scopato dentro un museo, è giusto ricordarla anche questa cosa. Stato, vabbè, questo, ma andando in un cesso puoi fare qualunque cosa. Ciao, ciao Vittorio, ciao, sì. Ciao, ciao. Ciao, caro ciao. Viva ciao. La Ferragni. Sempre. Stefano da Cremona, vai Stefano, dimmi, Stefano. Dimmi ciao. Stefano, dimmi, dimmi Stefano. Ciao. Io voglio parlare di De Luca. Sì, dimmi. Sei incazzato con De Luca? Sciacallo arrogante. Che non si deve permettere di offendere i lombardi di quello che è successo. Sì, ma non è che ha offeso i lombardi, non è che ha offeso i lombardi. Ha detto no, un po' ridendo: beh, in Lombardia, no, in Lombardia c'è qualcuno che diceva no, apriamo tutto, eccetera, eccetera, e poi hanno contato i morti, no? Beh, insomma, mi sembra piuttosto offensivo. Milano non si ferma e poi si è fermato a contare i morti, dai, è una brutta battuta, dai, però è il governatore del mondo, per carità, noi ci piace. Ma noi non l'accettiamo, noi non l'accettiamo. Lui non si deve permettere, lui deve ringraziarli e rispettarli i lombardi, perché quello che è successo da noi ha consentito a tante altre regioni di prendere poi dei provvedimenti per limitare i danni. E andremo rispettati e ringraziati. Ma Paolo da Verona, vai Paolo da Verona, vai Paolo, dimmi. Paolo, dimmi Paolo, dimmi. Mio nonno era tenente di quelli che non erano ancora alpini. E allora? Su nei Carso. E allora? E mi ha raccontato dei carabinieri che sparavano ai panti che avevano paura e scappavano dalla prima linea. Che cosa cazzo c'entra? Scusa, non ho capito. Niente, c'entra? Semplicemente per farti capire che i carabinieri non sono stinchi di santo. Ma che vuol dire? Ci saranno delle persone che sono dei criminali, certo. E ci sono delle persone... No. I carabinieri... sono nell'organizzazione, sai cos'era Gladio? Era ma cosa gente. C'entra? Ma cosa? Ma non c'è, non che tu c'è stai dicendo niente. Che è un'istituzione infetta, che è un'istituzione marcia di sì, questo? Esatto, ma vai esatto. A cagare, ma di che parli? Ma cosa vuol dire questa roba qua? Non vuol dire niente, è un'istituzione marcia, andrebbero chiusi i carabinieri, sciolti i carabinieri secondo te? Esatto. Ma questo è malato. Perché di me. I finanzieri, io mi ricordo, avevo 25 anni... Ma tu per caso sei un indipendentista veneto? Che cosa sei, Paolo? Ma no, assolutamente. Perché io so uno che tutto è possibile. Io sono uno che a 23 anni si faceva il culo per 800 euro al mese. Ma cosa c'entra, scusa? E cosa vedevo questi ragazzini che avevano la mia età, andavano in giro vestiti firmati, scendendo da Alfa Romeo, da delle macchine. Fermo là. Fineco, è tempo di investire con noi. Vi presenta La Zanzara. Francesco da Firenze, io non andrei fiero di quello che hai detto al Brasile, non andrei fiero proprio per nulla, augurargli il gabbio, dirgli quando sarai, fra un anno tu sarai al gabbio, gli hai dato del troglodita, gli hai dato belli del drogato, non ti sei accontentato, gli hai anche augurato il gabbio. Guarda, hai una buona proprietà di linguaggio, sicuramente sei in gamba, diciamo che sotto il profilo così dialettico te la cavi bene, ma sei un uomo di merda. Sei un uomo di merda, Francesco, ci hai fatto una figura di merda, capito? Hai imparato la lezione, deficiente. Marco da Milano, vai Marco, dimmi, Marco. Rieccoci. Sì, dai, dimmi, che cosa stavi dicendo? Che sono indifendibili, ma ti posso anche parlare della mia esperienza personale. Sì, amici miei, adesso voi parlerete della vostra esperienza allora personale. Mi lasci parlare, sì, ti lascio parlare, sì, d'accordo. Lascialo parlare, cioè, però. Ma lo sì, parlare, sì, certo. Lascialo parlare. Io non ti lascialo sto dicendo parlare. Che devi chiudere i carabinieri, che ho detto che bisogna riformare le istituzioni. Ah, basta, hanno ammazzato una mia amica con un colpo in testa. Che hanno fatto? L'unico scusa? Omicidio che una mia amica con Luca Sainaghi. capito? Ha ammazzato Simona Melchionda, una mia amica, con un colpo in testa, non perché conosco, non voleva scopare con lui. No, non conosco la vicenda, amico. Vabbè, mio, adesso, però, questo, questo non vuol dire tutto. Nulla, non è che un carabiniere ha una predisposizione all'omicidio superiore agli altri. Dai, non diciamo minchiate, dai, Marco. Non diciamo cazzate. Non diciamo cazzate spaventose. Non conosco la vicenda. Il fatto che fosse carabiniere non credo che c'entri con l'arma. Vabbè, ragazzi, Marco, cosa vuoi dire? La forza di una catena è quella del suo anello più debole. La forza di una catena è quella del suo anello più debole. Se non vale, e vale per tutti, compreso sti stronzi. Sti stronzi quali sarebbero, scusa? Quelli che fanno queste cose, ma questi che sono così il nome di un'arma, ma questo lo sappiamo, sono banali, che deve vedere, rivedere il suo. No, ma lo sappiamo, ci sono quelli che fanno cose illegali, ma è inutile che ci sono non i criminali. L'arma. Ma l'arma certo che no, ma non c'entra niente. Ma guarda, è giusto che sia così. Ma anche tra i carrozzieri ci sono i delinquenti, anche tra i giornalisti ci sono quelli che fanno i reati. Che cazzo vuol dire? È chiaro che lì, essendo un mestiere che ha a che fare con l'illegalità, alcuni diventano criminali. Ma quelli hanno la pistola in mano. Appunto, quelli hanno una appunto. Pistola sono lo Stato, quelli sono lo Stato, quelli sono lo Stato, quelli sono lo Stato, infatti ho detto stai zitto un attimo, stai zitto, infatti ti ho detto meglio, ma ancora questa storia, ma non cocainomane, forse hai un problema. Sì, ma non è che forse sanno prima che è un cocainomane, cretino, non è che lo sanno prima che è un cocainomane, ma sei un imbecille questo qua. Però per tre anni qualcuno ha coperto tutta sta roba, io ho fatto più per questo Stato di quanto ha mai fatto loro, hai capito? Sì. Io quando sono andato a fare il militare mi hanno reso in faccia perché non ero raccomandato, e sono andato nella polvere a prendere 300.000 lire al mese, un attimo, e mi sono fatto la Somalia, scusami, hai capito? Scusami Marco, coglione, sì, altro vabbè. Che palle. Ma non me ne frega niente che hai fatto la Somalia, che hai fatto quello che hai fatto, allora, che me ne frega a me. Va bene, vale per noi che viaggiamo giudicati, però io sto dicendo un'altra, vale anche per sì, loro. Ma io sto dicendo un'altra cosa, chi ha commesso delle illegalità, chi ha commesso dei reati, se è carabiniere secondo me dovrebbe pagare addirittura il doppio, essendo uno, come dici tu, che ha il monopolio, che ha il monopolio della forza, eccetera. È normale. La responsabilità di aver dato un'arma a dei coglioni. Vabbè, adesso condanniamo tutti perché ma lascia perdere il metodo di selezione, ma che c'entra, dai, ma su. Ma come che c'entra? Ma non è che controlli, ragazzi, non è che ingaggiano, non è che ingaggiano i ballerini della Scala a fare i carabinieri, su. Ma che cazzo volete? I ballerini della Scala a fare i carabinieri? Che cazzo volete? Dai, ci vuole gente coi coglioni e la testa. E va bene, quello è l'ideale, quello è l'ideale. Quello è l'ideale, non degli efficienti che pippano, capito? Quelli no. Ma cosa vuol dire? Ma questo ci stanno da tutte le parti. È evidente che è più grave che ci siano i carabinieri. Ma tu, no. Dalle altre parti non hanno la pistola. Emanuele nella da Viterbo, ho capito benissimo. No. Poi il caso della tua amica non lo conosco. Mi dispiace, sarà vero, informa. Per carità. Ma no, informati. Sicuro. Non è che conosco detto, tutti i casi di gente detto, ammazzata. Scusa. Informati a Oleggio, provincia di Novara. Simona Melchionda, uccisa a 26 anni. Sì, ma non perché quello era carabiniere, perché quello là era un pazzo. Dai. Protetto da tutta la caserma. Cioè. Quello la caserma, spesso succede come in tutti i corpi chiusi. Come in tutti i corpi chiusi. Punto, bravo, esattamente. Ma dove vivete? Ma dove vivete? Ma dove vivete? In tutti i corpi chiusi in tutto il mondo. Meno male che cazzo dici? Ma è così? Ma è chiaro, succede. Ma in tutti i corpi chiusi in tutto il mondo succede. Ma no, non è chiaro. Ma non dire stronzate, dai. Ed è giusto che se succede vengano messi alla gogna. Ma no, ma no, alla gogna è un'altra cosa. Hai finalmente ammesso che sono corpi chiusi, finalmente. Ma che cosa strana, ma l'ho sempre detto, ma che cazzo dici? Emanuele da Viterbo. Finalmente. Ma sembra che sei nati tre anni di silenzio, Emanuele tre anni di silenzi, mi sembri Giovanardi, che mi sembri Giovanardi, sei il Giovanardi della radio. Sta zitto, Emanuele da Viterbo, dimmi. Giovanardi, buonasera, volevo dire due cose. Allora, la prima è quello che hai detto tu ieri, che un carabiniere che sbaglia quando dovrà essere condannato deve pagare doppio, perché rappresenta una divisa, rappresenta un'istituzione. Ovviamente è un modo di dire, no? Ovviamente è un modo di dire, a parte che credo una pena superiore in quanto pubblico ufficiale sia già prevista. Esatto, ma non è una pena superiore, ma questo va bene. Poi, divisa. Poi andiamo avanti. Poi? E poi volevo dire al mio amico Valenzo, amico mio, ma un pompone non si rifiuta mai. Cioè, giusto, non la giusto. Ragazza di ieri, scusi, che ti voleva fare un pompone. Una pompa non si rifiuta mai. Non si rifiuta mai. Ma Crucio, ma l'amica giusto, tua ha ragione, Manuel, è, anche, è disposta anche a farla a me? Non lo so, ecco, ma adesso non è che adesso ecco ti puoi accodare a questa ecco cosa qua, non è che ecco siamo, non è che, vabbè, io non, è che la, non è che la stazione di servizio, la stazione, ma ho capito, Manuel, adesso ho capito. Serviamo il numero, mica siamo dal panettiere, dice adesso serviamo il numero 42, ma di che parla? No, scusi, Davide, però Davide, non ma me la vuole dire un pompone, ma si vergogni, cioè io, ma si vergogni, maiale, ma che si vergogni, ma io non ci avrei pensato due volte. Ha ragione, ma Emanuele non ha torto, però non ha torto subito, una pompa difficilmente si può rifiutare. Ma come fai a rifiutare una pompa? Cioè, a me il tempo che me l'ha detto già me l'ho tirato sui pantaloni. Dai, mamma mia. Simona, dai, dove sei? Simona, dove sei? Dove sei? Simona, anche il ragazzo piacente, palestrato. Cioè, se mi vuole conoscere l'amica tua. No, ma che adesso vergogna. Manuele, ripeto, non è un self service questo qua. Cioè, che non è che adesso vergogna, non è che possiamo che fare. No, vabbè, l'amica mia non è che è una che è così facilmente tipo di va. Ho capito, cioè, tu sei un vecchio buon gustaio, la vuoi tenere tutta per te. No, non è quello. Ho capito, non è che la mia amica adesso fa il self service, uno si mette in coda e quella fa le pompe. Dai, su, e allora. Non mi permettere mai, però te la vuoi tenere tutta per te, dai. No. Ignazio da Napoli, vai. Ignazio da Napoli. Ciao, senti, allora niente. Allora, volevo intervenire, volevo parlare riguardo alla questione di quello che è successo nella caserma. Sì, lo sappiamo, a Piacenza. Allora? Sì, no, allora per me ti volevo dire questo: io sono il figlio di una puntata dell'arma. Che, allora? Volevo sottolineare il particolare che se oggi abbiamo nell'arma, purtroppo, personale che non svolge il suo dovere, che tradisce. Questo lo sappiamo, dunque. Deriva dal fatto che purtroppo negli ultimi anni, evidentemente, sono stati assunti. È stato assunto personale preparato. Ma non lo so, questo. Ma questa è una banalità, una cazzata. No, scusami, Davide, può darsi, ma non lo so, non ho fatto un'indagine all'interno dei carabinieri, non lo possiamo dire, non credo che sia così la situazione. Ci sono delle situazioni purtroppo che non sono state governate, gente che sicuramente non ha parlato, casi di omertà, non c'è dubbio, come tu in tutti i corpi chiusi, come in tutte le forze di polizia di tutto il mondo. Ma chi ha detto che bisogna accettare? Ho detto che bisogna dare pene doppie, solo che quando qualcuno parla di sistema, il sistema, ma quale sistema? Davide da Lucca, fammi sentire Davide da Lucca, sei una vergogna, sei Davide da Lucca. Coglione. Dimmi Davide, dimmi. Sì, ciao Giuseppe. Dimmi, non ce ne frega niente di ciao, non ciao. Dimmi. Leccami le palle, hai rovinato questo Davide, paese. Che vuoi? Ma vai a cagare, vai. Hai contribuito a rovinare questo paese. Cosa vuoi? Io prima di ascoltare la zanzara ero una persona normale, ero senti adesso nel sociale adesso sì. Adesso invece sei semplicemente sei un cretino, tu eri un pirla anche prima, eri un coglione anche prima e resti un coglione anche adesso, secondo me. Allora, Simona. C'è un signore Simona, c'è un signore che si chiama Daniele Martinelli che era un ex Five Stars, ti ricordi David? Un ex Five Stars. Come no? Daniele Martinelli, certo. Il quale scrive: ecco l'elenco dei sei carabinieri arrestati a Piacenza. Giuseppe Montella, napoletano, boss dello spaccio e delle botte. Angelo Esposito, napoletano. Giacomo Falanga, napoletano. Daniele Spagnolo, pugliese. Salvatore Cappellano, siciliano. Marco Orlando, siciliano, comandante della caserma di Piacenza e domiciliari. Sei meridionali su sei. Ora qui nessuno dice che essere meridionale significa essere delinquente, ci mancherebbe. Va però ribadito che la predisposizione a delinquere e a fare del male è solitamente propria di chi nasce, cresce e si forma al sud. Ripeto, va però ribadito che la predisposizione a delinquere e a fare del male è solitamente propria di chi nasce, cresce e si forma al sud. Del resto la camorra, la Sacra Corona Unita, l'Andrangheta o la mafia con i loro metodi di sangue e di violenza non sono propriamente associabili alle mentalità tipiche del Piemonte, della Lombardia o del Veneto. Nessun valtellinese ha mai sciolto un bimbo nell'acido. Mamma mia. Il siciliano matto, spatuzza, ragazzi. Sì. Chiamiamo. Pronto? Daniele! Chi è? Sono Cruciani, come stai? Oh, ciao Cruciano, sto bene, bene, grazie. Sono qui con Parenzo. Ah, sì, ciao. Eccoci qua. Senti, ma buonasera. Voglio capire, ma è vero quello che hai scritto sui carabinieri? È verissimo, certo. Cioè, tu sostieni che cosa? Scusami, tu sostieni che la predisposizione a delinquere e a fare del male cresce e si forma al sud? Allora, io ho scritto che il metodo usato da questi carabinieri, come si evince dagli atti, dalle intercettazioni, torture, botte, estorsione, minacce, droga, sono metodi tipicamente mafiosi, sono metodi che purtroppo si sono generati al sud come metodo, e non vuol dire che il sud sia tutto così, perché Falcone e Borsellino erano cittadini del sud onorabili che sono stati uccisi dai loro corregionali, dai loro conterranei con questi metodi. Però scusami, tu hai scritto la predisposizione a delinquere, a fare del male è solitamente propria di chi nasce, cresce e si forma al sud. Sì, perché uno, allora qui non è razzismo, qui è proprio un metodo di mentalità. Non c'è io non ho mai conosciuto un milanese, un bergamasco, un bresciano, un veneto e adotti questi metodi, cioè il pizzo, il racket esiste al sud. Beh, oddio, il pizzo adesso esiste anche al nord, non è che non esiste al nord. Sì, esiste al nord perché c'è sempre qualcuno del sud che lo impone. Ok, capito, la racket a Milano, la platì di Milano, se a Buccinasco, non è una platì perché vengono dal Friuli, vengono purtroppo dalla Calabria. Cioè, ma in questo modo tu ne fai una questione etnica quasi, ne fai quasi una questione di, come dire, di ambiente, etnica. Cioè, tu dici sostanzialmente che questi qua, che sono uno napoletano, un po' di napoletani, pugliese, eccetera, uno del nord, le cose che fanno questi non le farebbe. No, esattamente così, io la penso così, ma non perché sia ben inteso. A Napoli hanno un sindaco che è De Magistris, che è un grande sindaco, ci sono grandi magistrati, si sono formati in una realtà difficile dove ad alto tasso delinquenziale e per cui diventano bravi magistrati, sia ben inteso, non è un voler generalizzare, però qui siamo un voler strumentalizzare. Scusami Daniele, qui siamo quasi ai terroni praticamente, cioè sì, qui siamo ai terroni arretrati che vivono in un ambiente malsano eccetera eccetera, che fanno delle cose che altri non farebbero, cioè uno nato e cresciuto a Mondovì non fa le cose di Spatuzza, questo dici tu. Certamente, allora se tu comunque sia in un determinati luoghi del paese puoi lasciare la macchina aperta, in altri no, capisci? Perché c'è proprio quelli della Uno comuni. Bianca, scusa Martinelli, quelli della Uno Bianca comuni. Non erano, mi sembra no, che fossero felice originali. Felice Maniero, vabbè, Felice Maniero, mafioso del nord, perché, Veneto. Scusa, c'è tutta questa gente che emigra dal meridione, che scappa dalla propria terra, meridionali bravi, integerrimi, che ma non anche hanno in Veneto la scappavano dal Veneto terra. Negli anni 60 dal Veneto scappavano, andavano in Australia, in Brasile, che cazzo dici? Ma certo, ma non solo dal Veneto, anche dalla Sicilia, ma ne sono scappati allora, più dalla Sicilia che non appunto, dal Veneto. Le migrazioni di persone ci sono state. Sono eccezioni che confermano la regola, purtroppo. Ma allora i clan che operano al nord, purtroppo i Veneti erano un popolo di migranti. Mi piace dirlo. No, ma lui però non c'entra niente che siamo un popolo di migranti, lui sta dicendo un'altra cosa. I clan che sono al nord hanno cognomi del sud, e lui dice che alla fine questi carabinieri da là vengono e non poteva che essere diversamente. Questo dice allora tu. Scusami, i italiani negli Stati Uniti, fammi sentire. Negli Stati il Uniti? Punto, sai cos'è? Quello che mi dispiace e quello che voglio portare in evidenza, il metodo di selezione anche di questi giovani candidati che cioè, si secondo te ci vengono troppi da sud. Indossare una divisa, rappresentare lo Stato e la legalità, l'onore, non c'è nulla di male che siano l'80% che siano, o il 90% che siano meridionali, ma ci vuole una selezione migliore. Vabbè, ma questo è un altro discorso. Questo è un altro discorso. Però tu dici non è un caso che vengano dal sud, perché tu dici c'è più criminalità, c'è meno senso, e che ne so, questo è alla fine. Altrimenti. La mia sensazione è che c'è qualcosa che non funziona a livello proprio anche intermedio e anche di vertice. La predisposizione non è a delinquere è solitamente propria di chi nasce, cresce e si forma al sud, questo dici tu. Questo Beh, è la... Io dico che quel metodo lì, che da come dicono le intercettazioni, non è certamente un metodo del nord, purtroppo è un metodo Vabbè. Mafioso. Ciao. È un metodo mafioso. Ciao, metodo Daniel, mafioso. Ciao. Oh ragazzi miei. Simona, dove sei? Simona, dove sei? Simona, dove sei? Simona. Francesco da Milano. È lui zitto. No, va lui zitto. Ciao Parenzio, a me non me ne frega niente. A me non me ne frega niente da dove vengono. Posso dire una cosa? A me da dove vengono questi qua? Salvini. No, ma non parlavo di questo, parlavo di un'altra cosa molto grave. Detto, lui Salvini, zitto, sì, e sì, lui sì. Saresti tu cos'è zitto. Che ha detto? Cos'è che ha il detto? Il governo coronavirus, il sospetto sì, di Salvini. Sì. Il governo sparge infetti per giustificare lo stato d'emergenza? Questo ha tweetato Salvini. Cosa? E tu zitto. Sì, oh, questo è una cazzata. No, è una cazzata, posso Salvini, dire. È semplicemente una cazzata. Il governo sparge infetti per giustificare. E tu zitto. No, dalle, sto zitto, lo stai dalle, dicendo tutti, sto dicendo che è una cazzata. Dalle 18:30 io ero qui ad aspettare. Oggi ho fatto la trasmissione solo perché volevo aspettare a vedere quando avresti dato questa notizia. Zero. Silenzio assoluto. E tu zitto. zitto, hai venduto questa trasmissione alla bestia di Salvini, ma hai venduto questo spazio a Steve Bannon, ai sovranisti, alla Marion Le Pen, hai venduto questo spazio della radio, della Confindustria al peggior populismo europeo, e dovrai rendere conto di tutto questo alla dirigenza, alla dirigenza della Confindustria, dovrai rendere conto di tutto questo, uno spazio sequestrato e dato scientificamente in appalto agli, agli anti-europeisti e ai populisti del mondo. Scusa, questo c'è quella frase di quella leghista in aula? Ce l'abbiamo quella leghista in aula che dice quella frase sul governo, eccetera, ecco, eccetera. Vedete, vedete, aspetta, vedete, aspetta un attimo. Vai, vai. Ora, la mancanza di una politica di flussi e dell'immigrazione controllata ci sta mettendo nuovamente tutti in pericolo. Siccome stiamo uscendo da questa situazione di emergenza. Allora? Siccome stiamo uscendo da questa situazione di emergenza e non sapete come mantenere la poltrona, allora importate il Covid. Guardate, non è importate una questione di razzismo. Importate il Covid per mantenere la poltrona. Francesco da Milano, allora che stavi dicendo, Francesco? Ed ecco, è lui zitto. Ciao Cruciani, ciao Parenzo, non si sa come mai tu ancora abbia un programma sulla 7, non si capisce. Vabbè, dai, andiamo avanti, Francesco, non ci rompere i coglioni, dai. È lui zitto. Dai, poverino. Dimmi, ascolta, altra cosa. Ma intanto questi carabinieri qui, quello di prima non è che c'ha tutti i torti, questi qua arrivano da sud, tutti arrivano da sud, e fammi capire come mai non ce n'è uno del nord che, ma chi che te l'ha detto? Ma è una cazzata questa roba qua, è una puttanata, non è vera. Ma no, non è vero, a me non me ne frega puttanata. Niente che vengono da Napoli, vengono da Palermo, sono carabinieri. Ma non è il fatto che ma chi da se ne frega, ma che hanno che il DNA criminale, ma questa è un'altra stronzata, è il fatto che non vengono dal nord, è più vicino la cosa. E allora? E allora una volta mettiamo che sia così, non vengono, la maggior parte vengono dal sud, dunque. Perfetto, perfetto. Dunque? Allora, a sud hanno, come hanno vissuto i 18 anni prima di fare la leva? Come hanno vissuto 18 anni prima di fare la leva? E come hanno vissuto? Come hanno vissuto? Stupravano la gente, la che facevano? Stupravano? Che facevano? Stupravano, spacciavano. No, cazzo, non è che stavano stuprando, stavano comunque racket. No, ma che facevano? Quindi, prima di fare la leva, che facevano prima di andare nei carabinieri? Stupravano, rubavano, picchiavano, che facevano? Cioè, che venivano, scusami, venivano davanti. Indagano sul passato? Da quando? Vito da Roma, dai, Vito da Roma, andiamo avanti. Vito allora, da Roma. Eccomi qua. Allora, dimmi. Una cosa volevo dire: il discorso delle mele marce che giustamente avete fatto, io non posso che non. Io non parlo nemmeno di mele marce, non me ne frega niente, nemmeno la parola mele marce, mi dà anche l'espressione, mi dà anche fastidio. Cioè, mi Okay, no, però... mi dà fastidio, ma non è che si può parlare del sistema dei carabinieri, ma che roba è? Dai. Ma nessuno ha parlato del sistema dei carabinieri, nessuno. Dimmi, Vito, nessuno. Posso dire una cosa un poco più profonda sull'argomento? Allora. Quando facevamo le squadrette da piccoli, ognuno si sceglieva nella propria squadra i più forti, no? Allora? E alla fine venivano scelti i più scarsi. Ma se per caso io potessi condizionare la scelta dei miei avversari, gli sceglierei quelli bravi, quelli forti, quelli onesti. E che vuol dire? Quelli... Che secondo me c'è un sistema. Non parlo nello specifico della criminalità che c'è stata adesso, questo evento. No, secondo me qualcuno vuole indebolire i corpi in generale. Delle armi varie, cioè non parlo allora solo di facendo che qualcuno, facendo qualcuno chi? Non scegliendo il meglio. E chi lo farebbe? Comunque, non ho capito, chi lo farebbe? Perché, allora, ma scusate, ma la cioè tu stai dicendo che lo fanno apposta, i politici lo fanno anche qualsiasi tipo questo di, è malato. Qualsiasi ora, tipo di assunzione. Orazio da Messina, infatti Orazio da Messina. Orazio da Messina. Buonasera, sì, buonasera. Molto semplicemente desidero avvertire il signor Daniele, del quale non ho capito Martinelli, il sì, cognome Martinelli, che provvederò a denunciarlo pure, basta, per razzismo nei confronti del sud. Tutti che denunciano, tutti ottimo, che denunciano, ottimo, tutti ottimo, sì. Ottimo, e decido Radio 24 finisce tutto, che implode tutto, esplode tutto la registrazione di legge, perché mafioso a me non l'ha detto mai nessuno, e non lo consenta un coglione come quello di dirmelo. Ottimo, ottimo, all'attacco, ascoltatori contro ascoltatori, conduttori contro conduttori, esplode tutto, bellissimo, dai, scusi, Francesco, le piace pessimo. L'ascoltatore che denuncia. Che mestiere fa quel signore? Chi? Naturalmente, chi? L'ascoltatore che minaccia l'altro ascoltatore, il conduttore che denuncia l'altro conduttore, il conduttore che si autodenuncia, bellissimo. No, no, il conduttore è stato corretto. E anche Parenzo è stato insolitamente corretto. Parenzo, scusi, aspetti un attimo che c'è Freccero. Freccero, che pensa di Orazio da Messina che vuole denunciare Martinelli? Scusi. Naturalmente Orazio è uno psicotico, naturalmente. Come è perfetto. Ma naturalmente, dai, che funziona molto. È un matto, bellissimo. Ci vogliono i matti, naturalmente. Sì. Dai, che funziona. Non ho capito. Bella, matto forse è meglio che mafioso, però. Però scusami, Orazio. Dai, che funziona. Ma un matto che dai, soltanto un matto può telefonare a una radio così. Dai, ma va benissimo, funziona. Bisogna portarlo alla Rai, naturalmente. Scusa, Orazio, ma non ho capito. Vuoi denunciare veramente Martinelli? No, io voglio segnalare, io voglio presentare un esposto. Ma basta, io esposto. Non so come sarà il giudice. Tenete la registrazione semestrale di legge. Sì, a non ti preoccupare, non c'è nessuno che la cancella qui. Non c'è nessuno che. No, per carità, io non ho detto questo. Questo non capisce un cazzo. Razzo, non capisce un cazzo. È il classico coglione che non capisce un cazzo. Posso dire. Adesso finisce, guardi. Adesso finisce che Orazio era partito volendo fare un esposto contro un ascoltatore. Lo fa contro un conduttore. E io verrò a testimoniare a favore di Orazio. No. Sì, te lo dico io. Sì. Lei è stato corretto. Ma lei io è stato corretto. Ma non me ne frega un cazzo. Io non voglio essere corretto. Ma finiamo, siamo tutti mafiosi al sud. Che vuol dire? Si salvano solo Falcone e Barsellino. Ma basta. Scusi, Freccero, ma non è bellissimo. Gli antirazzisti al nord sono solo. Parenzo, stai zitto. Freccero. Aspetta, Orazio. Stai zitto, Parenzo. Freccero, che pensi di questa esplode tutto. Penso che naturalmente stia esplodendo il programma, naturalmente. No, perché? Non sta esplodendo tutto, tutti che querelano tutti, naturalmente questo Orazio è chiaramente un povero pazzo, naturalmente, è un coglione, un personaggio, una nullità assoluta che naturalmente acquista identità funziona. Telefonando e quindi funziona, e quindi matto che funziona. Orazio, come rispondi? Orazio, come funziona? Scusa, che vuoi che risponda? Antonio Antonio si è qualificato da solo. No. Un povero paranoico, dai. Un povero paranoico. Antonio, dimmi. Dai. Antonio, dimmi. No, io voglio dire soltanto una cosa: che se uno è un delinquente, è un delinquente, non c'è niente dove è nato. Comunque, se abbiamo imparato qualcosa, l'abbiamo imparato dai bravi di Manzoni, che sicuramente erano al nord e sicuramente erano mafiosi. Vabbè, ma secondo loro, te è un razzista quello che ha parlato prima? È un razzista, non ho capito. Molto certo che è un razzista, molto prima di noi. Poi volevo dire un'altra cosa. Che un certo Rocco Chinnici che poco prima adesso Falcone noi dobbiamo fare la storia, dai, su, non ci avete rotto i coglioni. No, non te la faccio dire perché mi hai rotto già i coglioni con queste citazioni. Che vuoi dire? Dire che Rocco Chinnici ha detto che la mafia Rocco è nata dopo l'Unità d'Italia. Ma Freccero, diglielo che non funziona la citazione. Rocco Chinnici, ma che cosa facciamo? Rai Storia qua, dai, che fa lo 02 Rai Storia, su, ancora con la mafia non funziona più in televisione. Dai, no? Naturalmente adesso diranno ecco il servizio pubblico deve raccontarla, ma basta, ora la mafia è su Sky naturalmente con Gomorra e dai ormai è finito, dai, una storia finita quella, bisogna naturalmente trovare nuove storie, naturalmente nuova mafia, naturalmente nuovi episodi terribili, nuovi episodi legati naturalmente all'usura, questo naturalmente ci vuole oggi. Basta con la storia, non era storia questa, dai, fermi tu. La zanzara. Cioè, questo significa che ti piace qualcosa del nazismo, di quel signore con i baffetti? Ti piacerà qualcosa del signor Hitler o no? Mi piace ad un certo punto l'ordine, la disciplina, Hitler. L'organizzazione che c'era in Germania. Mi piace che la Germania abbia difeso a un certo punto l'Europa. Sono in compagnia. quello che fa le pernacchie è un cretino. Quello che fa le pernacchie, quello è il livello, è il livello di intelligenza. Caro avvocato, caro avvocato, mia nonna è stata in campo di concentramento nel campo di Bergen-Belsen. I suoi parenti sono morti nel campo di concentramento. Ma scusa, io se la trovo a Verona le sputo in faccia. Se ti trovo per strada non ti tocco, ma ti sputo in faccia. Belazzi, io non capisco. Faccia. Io non capisco una cosa. Ti denuncio alla procura. Ti denuncio alla procura. Infame che non sei altro. Io ti sputo in faccia. Nazista schifoso. Ti sputo in faccia. Avvocato. Ti sputo. Come si fa a dire? Come si fa a dire che l'Olocausto non esiste? Ma perché? Perché? Schifoso. Come si fa a dire una cosa del genere? Schifoso. C'è la prova. Maledetto schifoso. Ci sono qua. Maledetto schifoso. Tu sia maledetto, io ti denuncio alla procura. Mia nonna è stata in campo di concentramento. Maledetto. La telefonata sarà registrata per garantire la qualità, il decoro e la correttezza dell'organizzazione e dei contenuti dei programmi di Radio 24. Però sei un coglione, vive cacciatori, io sono pure un cacciatore, se vuoi ti do l'indirizzo, vieni da me a ficcarmi il fucile in culo, mo cavolo, succhiamelo, sei un indegno, un bastardo e figlio di troia, vieni da me, fatti del numero da Cruciani, coglione. Io detesto i ciclisti in città, li odio dal profondo del cuore, sono una razza da estinguere, maledetti, non rispettano gli stop, non rispettano i semafori, non rispettano la segnaletica, non rispettano per niente, sono delle teste di cazzo e sembra che si sentano invulnerabili, vaffanculo, se ti faccio male passo io i guai, maledetto. E il nostro stupido sindaco ha messo una cazzo di pista ciclabile in questa città imponendo l'obbligo dei 30 all'ora in uno dei rarissimi tratti rettilinei della città, creando una situazione di traffico insopportabile a vantaggio dei ciclisti che non usano la pista ciclabile ma continuano ad andare sui marciapiedi. Dio come li odio. Mamma mia, David, mamma mia, interventi molto forti, interventi molto forti. WhatsApp. Interventi molto forti. Dimmi, dimmi, che c'è? Che c'è? Interventi molto forti, per fortuna molto forte. Domani si chiude. Interventi molto forti, tanto domani, come già detto, si chiude. Vabbè, che the last is the last, is the last. Tomorrow is the last. Oh, vuoi sentire last. Morelli? Vuoi sentire Morelli? Lega? No. Lega? No. Lo vuoi sentire no. o no? No. Lo no. vuoi sentire no. o no? Sì, no. Sì, no. Oh, oh, ma. Senti, senti che dice. Vacanze e immigrati, turismo e immigrati, che c'entra? Ma se cosa già? C'entra? Che ne so, guarda. Il vero bonus turismo del governo Conte? È quello per gli immigrati clandestini. Eh già, quanti italiani hanno cercato di approfittare del bonus turismo tanto strombazzato in questi mesi dal governo Conte & Company? Peccato non siano riusciti ad ottenerlo. Ma la vera risposta del governo Conte è la nave Zazà e quelle che si aggiungeranno. Cioè ha fatto proprio una specie di format, sembra uno youtuber, che cazzo ne so, uno che sì, uno che, spot, no, uno che, un pro, uno no spot. Ma nemmeno, cioè uno che quello che fa, uno di quello che fa le stories sull'Instagram, che ne so, vai vai. E qual è la soluzione di fronte a questa crisi che vede gli italiani in ginocchio? Mettere a disposizione nuove navi da crociera per gli immigrati clandestini che stanno tornando a sbarcare in massa sulle nostre coste. Il Ministero dell'Interno, guidato da Luciana Lamorgese, PD, ha lanciato un bando per avere altre navi. 4 milioni di euro. Sì, avete sentito bene. 4 milioni di euro. 4 milioni di euro. 4 milioni di euro. 4 milioni di euro. 4 milioni di euro che verranno dedicati a 250 immigrati clandestini. Si è rotto il disco, si è rotto. E basta fare due conti per capire che 4 milioni 250 clandestini fino al 31 di ottobre ci costeranno 4.800 euro a clandestino al mese. Con tutti questi soldi, quanti italiani avresti aiutato? E che bisogna fare allora? Dice il nuovo youtuber, il nuovo, che cazzo ne so, il nuovo influencer. Il nuovo Brasile. Influencer. Il nuovo Brasile in Parlamento. Alessandro Morelli. L'unica soluzione sarebbe quella di chiudere i porti, esattamente come ha fatto il ministro Matteo Salvini. Ma il governo giallorosso non ha alcuna intenzione di farlo, anzi in Parlamento la sinistra sta chiedendo di non sostenere più la Guardia Costiera Libica, che è l'unico freno rispetto ai tanti arrivi. Insomma, avete cercato il bonus vacanze? Se non l'avete trovato, attaccatevi alla Zazà. Fermo, c'è anche Spatalino sull'immigrazione. No, c'è anche Spatalino sull'immigrazione. Mi vuoi c'è far anche venire un coccolone tutto insieme? No, mancano 24 ore, no. Se avessimo un governo con gli attributi, scaricheremmo sulle ONG l'onere. Tu sei andato a prendere sti disperati, falsi profughi, e poi me li scarichi in Italia. E poi te ne vai? No, non mi sta bene. Io, Stato italiano con gli attributi, ti impongo a te ONG di tenerteli a bordo. Fai tu la nave quarantena, issa la bandiera gialla e te li tieni. Con i problemi che abbiamo noi, gente che non riceve la cassa integrazione, invalidi che non ce la fanno più, giovani alla ricerca di un lavoro, e piange. Io sarei per l'utilizzo del denaro pubblico per noi italiani, e non come fa questo governo, che privilegia in una maniera vergognosa gli stranieri, sti falsi profughi, fra cui molti sacchetti a perdere. Mamma mia. E valga il vero. Attenzione, Giorgio da Cantù, che dovrebbe essere il masoccone che secondo me è incazzato per una cosa che riguarda i carabinieri, masoccone, vero? Cosa vuol dire il masoccone? Chi è masoccone? Si chiama masocco, certo. Dimmi Giorgio, perché sei incazzato? Sono d'accordo con te, però io vorrei fare invece una, allora io dico, la letteria oramai si immagina qual è che è, nonostante non abbia aperto i giornali, però io vorrei fare una filiera a favore di questi carabinieri, perché hanno ragione, fanno bene a fare queste cose. Cioè, in che senso fanno bene? Cosa dice questo criminale? Come fanno bene? Come tutta la criminale? Giustamente, avendo uno stipendio da fame, dallo Stato, criminale? Arrotondano, loro fanno bene da arrotondare. Ma lei è un criminale. Perché pagare i carabinieri 3.000 euro al mese perché sono dei bersagli? Ma che c'entra? Sono dei criminali. Fanno bene a fare queste cose perché ma che sei pazzo? Sei. Ma questo è scemo proprio. Ma tu sei pazzo totale. Ma io spero che ti denuncino anche a te per istigazione. Ma sei a delinquere. Hanno ragione a fare violenza alle persone in caserma, a spacciare droga. Ma tu sei scemo, sei. Fermala, non c'entra niente adesso, Giuliani o non Giuliani, eccetera. Non c'entra assolutamente nulla. Stiamo parlando di un'altra cosa. Stiamo parlando dei carabinieri arrestati a Piacenza. Tu stai dicendo, Giorgio, tu stai dicendo che hanno fatto bene a fare quello che fanno. Parenzo, tu che sei una persona intelligente, ma vaffanculo, ma io non parlo con te, brutto imbecille. Ma vaffanculo, vai, imbecille. Ma non ti permettere neanche di dire queste minchiate, stupido che lo sei altro. Che hanno fatto, parlo con te. Hai detto, caro Masocco, che hanno fatto bene. Perché hai detto? Hanno fatto bene. Ma cosa, cazzo? Ma sono accusati di reati gravissimi. Ma che reati gravi? Ma uno che guadagna 1.200 euro rischia la vita. Ma che c'entra? Che deve fare? E che deve fare? Ma i carabinieri tutti i carabinieri, fa ma bene. Io pensavo fossi incazzato per l'origine, imbecille. Per l'origine di questo imbecille. Sì, ma l'autonomia è sempre quella, perché un lombardo non è mai nei carabinieri a fare atti di violenza come fanno quelli. Ma che cazzo c'entra? Ma che purtroppo l'autonomia è sempre pazzo. Quella, le mie sarà calabrese, siciliana, napoletana, imbecille. Ma credo che dei cognomi che tiri fuori dei carabinieri non ce ne non per niente, ho sempre detto al mio paese, Limonaranz, carabiniere finanze, tutti prodotti da Sicilia sono. Ma cosa c'entra questo? questo, adesso questa qua è un'altra puttanata. Questa è la prima puttanata. La seconda puttanata che hai detto è questa roba qua che fanno bene ad arrotondare con la criminalità, trasformandosi in criminali. Ma tanto arrotondano tutti, arrotonda la Lega. Ma questi hanno fatto. Ma questi arrotondano gli altri. Tutti arrotondano e questi qua che cazzo. Ma questi spaccio, botte, torture, pare. Ma che cazzo? Ma a un certo momento torture le beccano loro tutti i giorni perché sono dei criminali. Ma criminale. Sei un criminale, sei gli immigrati, un pittore che gli spara. E poi un povero criminale sei. È stato ucciso Giuliani, è stato ucciso. Adesso che c'entra Giuliani, ucciso o non ucciso? Questo non c'entra un cazzo. Ucciso è stato, ucciso, gli hanno sparato. È stato lanciato un estintore per ma chi se ne frega, ma è roba vecchia, sei, dai. Sei un povero criminale, ciao, sei ciao, tu ciao, lo ciao, sei un criminale. Ciao, ciao, ciao. Ivan da Roma, vai Ivan. Amori miei. Dimmi, dimmi. Eccoci qua, dovete smetterla di indottrinare le masse. Dovete risvegliare questa coscienza. In che senso, scusa, risvegliare la coscienza? Spiegami. Nel senso che un fatto che la Terra è un piano stazionario è piatto. È un fatto che ci avvelenano con le scie chimiche. È un fatto che ci stanno modificando il pensiero con la guerra psicotronica. È un fatto che dobbiamo risvegliare la coscienza e fare una rivoluzione mondiale. È un fatto, è un fatto che ti hanno sbagliato il farmaco. È un fatto che ti hanno sbagliato il farmaco. Mio, quello è un fatto. Senta, Parenzo, mi chiedo come lei possa leccare il culo dei suoi padroni. Ma quali padroni? Così sfacciata. Tu non hai padroni perché purtroppo non, è non, siccome non hai il cervello, il nessuno sì, la vita. Sì, Mario da Firenze, vai. Mario da Firenze, vai. Sì. Tuo padrone è la cosa, tuo padrone è l'ospedale psichiatrico. Il reparto di psichiatria, ma un buono ci vuole un reparto Mario buono. Mario da Firenze, vai Mario. Ciao, ciao. Dimmi. Sono Mario, sono un cacciatore di caprioli, daini, mufloni, cervi e cinghiali. Sì, dunque? E dunque niente, sono un cacciatore di selezione. Ora, ieri c'è stata la tipa che parlava, che diceva che l'animalista che ce l'aveva a morte con i cacciatori, che devono morire, eccetera, eccetera. Ecco, per cui volevo intervenire. Ah, cosa? Marcella, fermo. Logica, spazio, tempo. Modul Block, l'evoluzione del magazzino. Vi presenta Promo 24. Piemonte, la nostra ospitalità è singolare e con il voucher vacanza sei nostro ospite due notti su tre in hotel, bed and breakfast, campeggio, alloggio, agriturismo. Più luoghi insoliti da scoprire, più sport all'aria aperta, più prodotti a chilometro zero, montagna o colline, laghi o città d'arte. I mille volti del Piemonte ti aspettano per le tue vacanze. Scopri gli itinerari per le due ruote e il trekking in paesaggi magici. Gusta il fascino della lentezza sui cammini spirituali. Visita i villaggi alpini e i parchi naturali. Assapora vini e cucina da intenditori. Vai su visitpiemonte.com e scopri come acquistare online il tuo voucher per una vacanza in pieno benessere e sicurezza. La Zanzara. Our missiles are big, powerful, accurate, lethal and fast. Ascolta, ascolta. Io ho l'abbiato di Donald Trump. Di Iran. Guarda. Donald Trump, guarda, arrabbiato, guarda di mia collo, guarda Donald Trump, mamma mia, mamma mia, Donald Trump, mamma mia, mamma mia, Donald Trump. Yeah. di tutte queste sostanze chimiche per decontaminarci farà venire delle allergie alle quali non abbiamo pensato. Oddio. Delle belle reazioni, perché no. A furia di strusciare tutto, ma no. con la Madonna, pulire, non abbiamo bisogno di nuovi disinfettanti, non abbiamo bisogno di nuovi sistemi, luci, lampade, ozoni, madonne, robot. Oltre ai camionisti, un'altra cosa che dovrebbe sparire dalla strada sono questi cazzo di mezzi agricoli. Vai a sparare la merda nei campi, levati dalla strada che vai al massimo 40 all'ora. Amore, perché non ti fai crescere i peli come la tipa della foto che ti ho mandato, che ti escono dalle mutandine? Dai che mi arrappa, dai che funziona il pelo che esce dalle mutandine. effettivamente pazzesco, potrebbe pazzesco. dai che funziona. Scusi Marcello, ma non è mai stato inventato un format in cui c'era il confronto tra le passere? Beh, dai che funziona, no. Pelo fuori o pelo dentro, dai, naturalmente dai. Naturalmente i deputati una cosa dovrebbero farlo i deputati, senatori e deputati, o no? Sì, naturalmente è un'idea alla quale si può ovviamente lavorare. Io non so se la RAI sia pronta per affrontare un format così legato alla realtà come questo. La RAI è in mano ormai a Renzi. Renzi, mi hanno cacciato, non si può fare un programma naturalmente. Sul pelo, non si può fare un programma sul pelo. Ho paura di noi, tutti cattolici della RAI, renziani, dai, Italia Viva. Ma c'è il problema anche del budget! Appunto, tra l'altro, appunto. Allora, eravamo con Mario da Firenze. Allora Mario, stavi dicendo prima sei un cacciatore, dunque caci caprioli? Caprioli, daini, muffloni, cervi, cinghiali. Sì, e non ti vergogni cacciatori. Per questo, non ti senti un pezzo di merda, non ti senti un infame, no. Come dice Mocavero, perché... altri animalisti, la signora Marcella ieri, che vi vorrebbe tutti morti, appesi, sottoterra. Quando Marcella vuole il cacciatore morto, in realtà vuole l'uomo morto, vuole anche se stessa morta, no? Beh, adesso questo non lo so, adesso l'uomo morto non credo. Cioè. Vuole i cacciatori morti, che è un'altra cosa. Non esageriamo. Vabbè, ma non esageriamo, ma secondo me no. Però in realtà noi facciamo tra l'altro una caccia di selezione, va bene, che è una caccia dove abbiamo un numero assegnato di capi in base a dei censimenti, a delle stime scientifiche, va bene, e che le associazioni di categoria, cioè gli agricoltori, chiedono fortemente per contenere i danni. Ciao amico mio, ciao Mario, ho capito, ciao. Valerio da Bologna, vai Valerio, dimmi. Ciao Cruciani, ciao Parenzo. Guarda, io voglio molto bene a Parenzo, però dirò una cosa che non gli piacerà tanto. E praticamente volevo raccontarvi un'esperienza che ho avuto l'altro giorno con un mio slave. Un tuo che, scusa? Un mio slave, uno schiavo. Tu hai uno slave? Uno schiavo, un altro che è uno schiavo. In che senso no. Schiavo, scusa, spiegami. Beh, nel senso che ho avuto una cam con lui... E ero il suo feeder dall'inglese, che vuol dire colui che alimenta, colui che nutre. Praticamente io spiegami dovevo fare che, pesi. Tu che ruolo hai? Cioè? Io dovevo fare pesi in cam e insultarlo e obbligarlo a ingozzarsi di torte, pasticcini per farlo diventare ciccione perché lo eccitava. Ma questo qua è un gioco oppure lui ti paga per questo? Non ho capito. Beh, insomma, diciamo che qualche regalino, sì. Cioè, non ho capito, tu lo hai sottomesso in questo modo? Esattamente, certo. Spiega, vai avanti. Beh, esatto, questo lui intanto chiaramente ci masturbava, faceva queste cose, si ingozzava e godeva a vedere me che invece gonfiava i muscoli, mentre lui diventava ciccione. Certo, lui godeva del fatto che tu, ma ragazzi, non può essere vero questa cosa qua, dai. Assolutamente, esiste un fetish, si chiama feeder. Come si chiama? Sono i feeder, gente che appunto ha questo fetish di diventare più grassa per qualcun altro. Sì, ma come si mettono poi, diciamo, dal punto di vista, cioè come funziona la cosa? Via web oppure dal vivo? No, dal vivo non l'ho mai fatto, però via cam sì. Via cam, cioè via cam. Tu sei il master che praticamente fa palestra, cioè sì. Esattamente, sì. Faccio palestra, faccio pesi, fletto i muscoli. Sei gay? Io sì, assolutamente. Sei gay. Dunque, non ho capito, fletti i muscoli, fai pesi, eccetera, eccetera. C'è un altro dall'altra parte, cioè dall'altra parte del video, cioè collegato con te, che si ingozza di che cosa? Si ingozza, torte, pasticcini, patatine fritte, quello che vuole, insomma, cioè, quello che ha. E che cosa fa? Si masturba, gode vedendoti, non ho capito. Esatto, ma che bisogno c'è di ingozzarsi? Non ho capito, qual è la... Lui peggiora e vede me migliorare e questa cosa lo eccita perché è il mio schiavo. Ma davvero esistono queste cose? Dimmi che... Esistono che... veramente, ma voi non avete idea di... Cosa mi scrivono? No, io non ho idea. No, non ho idea. Perché io non hai idea? Non perché? Ho idea. Ma perché non ho idea? Idea. Non ho idea e non voglio avere idea. Posso? È consentito ancora? Non ho idea e non voglio avere idea. Magari tu hai un amico e non lo sai. Magari tu hai un amico e non lo sai che pratica questa roba qui che si chiama Fieber. Com'è che si chiama? No, non ho nessun amico. Non ho nessun amico. Se ne sai, magari non lo sai. No. Ti dico di no e ti guarda, no, fidati di me. No. Magari telese, magari telese, no. Magari telese si ingozza, si ingozza. Sai che adesso, ma sai che se mi ci fai pensare, se mi ci fai si pensare, ingozza, si collega con Valerio, si collega con Valerio. Io penso e Valerio, che telese dovrebbe chiedere la chiusura di questa trasmissione. Dovrebbe, si collega io con Valerio. Ma scusa, hai detto che è possibile? Hai detto che è possibile? Anche se ho detto che è possibile. Però non ho confermato, ho detto è possibile, non ho confermato. Cioè, praticamente l'immagine è questa: Telese si ingozza e si masturba guardando Valerio che usa i pesi e che rafforza i suoi muscoli. Questo è il punto. Anche per Parenzo, che lo conosce bene, a contatto con uno di giorno, dice: è possibile che questo avvenga, signor Telese. Ma non avete idea, veramente. Cioè, che ti chiedono, per esempio? Cosa ti chiedono? Principalmente basta mettere una foto profilo con i muscoli. Ti scrivono di tutto, le persone sono persone fuori di testa. Ma cosa ti hanno chiesto, per esempio? Che ne so? Beh, c'è stato una volta uno, io non accettai perché mi faceva un po' schifo, che mi propose dei bei soldi per andare a casa sua a cagargli in bocca e andarmene. Vabbè, questo mi pare che è una cosa, cioè, pure c'è una cosa, non dico ormai accettata, ma accettata, però mi sembra una cosa abbastanza esatto. E poi scontata, sì, poi che altro, gente che mi ha proposto di venire a pulirmi casa. Gratuitamente. Questo cucinare. Potrebbe essere buono, però venire a casa a pulire gratuitamente, questo potrebbe non essere male anche per me. Potrei mettermi in questo esatto. Tipo di situazione. Ciao amico mio. Ciao, arrivederci. Signora Simona, che ho un sospetto io su Simona da Roma, eccoci. Ciao Simona. Ciao Simona, dimmi tutto, dimmi. Sono Simona, volevo parlare con Parenzo. Eccola qui buonasera, Simona. Buonasera, benvenuta. Mi dice qualcosa. E benvenuta, cara Simona. Eccoci qua, buonasera. Buonasera, ieri non benvenuta, cara. Grazie, avevo mandato soltanto dei messaggi vocali. Questa sera invece io ti ho chiamato perché la proposta te la voglio fare in diretta. Bravo, così non di puoi quale, sfuggire. Di quale ricordaglielo un po'. Di quale proposta parla, cara signora? Allora, vuole che discutiamo del MES? Del MES? No, possiamo no, discutere no, del no, MES? No, no, se no, lei vuole. Vai dritta. Guarda, io sono bravissima su altre cose, su altri argomenti. Ah, lei forse si occupa del recovery fund. Ah, bello, meno male, del recovery fund. Ottimo. Sì, recovery, allora, altra cosa, Parenzo, recovery. Se lei si ricorda, ieri gli avevo proposto un pompino, ok? Sì, un pompino, praticamente. un pompino. Scusi? Come dici, signora, scusi? Volevo farle guardi, un pompino. Ma guarda che grazie, lei avrebbe comunque dovuto rispondere, okay, sì. O sì. No. E invece... E non era difficile la risposta, ok? Signora, siccome signora, siamo alla chiusura della grazie, trasmissione, ma... mancano pochi giorni, no, uno, ok? Uno sto offrendo su un piatto d'argento una cosa a cui lei non può aiutare. Perché la signora mi pare di capire, la signora Simona, che conosco, mi pare di capire sia una specialista di questa roba qua. Bravissima. bravissimo, bravissimo. Perché lei, signora Simona, ha già avuto una relazione con il signor Cruciani, è corretto? Perché questo non si può dire, questo non si, questo non importa. Allora, io voglio capire questo. Questa è l'unica trasmissione al mondo in cui un'ascoltatrice. Ma quale opportunità? Siete degli sporcaccioni, siete. Ha ragione, ha ragione. D'accordo, d'accordo. Gratuita. Scusa, scusa un attimo, Davide, però è una cosa incredibile. Ti offro su un piatto d'argento la signora che è abbastanza piacente, ma, una bella ragazza, capito, che è specialista di un'arte, che è quella del pompiname, come direbbe la Saulino. Ti offre una roba a gratis. E stai sicuro che la caro Parenzo, sei tu che vieni a cercare me dopo, fidati. Ma, viviamo in un contesto politico talmente particolare in cui non possiamo permetterci, cioè l'Europa non lo permetterebbe. Però, ma io non sto cercando nessuno, io ho chiamato perché no, però scusa, l'argomento. Guarda che non è un fake, è assolutamente vera la cosa. Se tu vuoi, te lo fa. Se tu vuoi, te lo fa. No, cioè, se tu vuoi, Natania, dai il consenso, dai il permesso. Io credo che tu lo possa completamente dare. Io voglio, viviamo in un contesto talmente particolare. Cioè, le sanzioni dell'Europa, il rischio del default. Con il pissing dopo, ma addirittura pure il pissing. Ma a me non me ne frega niente, ma io non voglio niente. Scusa, io non ho chiesto niente di tutto questo. Questa è notizia, qui c'è novità, è grande novità qua. Comunque, la cosa più interessante da capire. Ma la doccia, guarda, così non sporchiamo niente. Ma qua, questa è importante. Ma quale doccia? Ma di che Sta signorina qui ha avuto rapporti con uno dei due conduttori, cioè Cruciani. Adesso telefona, tu l'hai detto. Non è vero. Adesso telefona in diretta per proporre altri artifici, come dire, no? No. Fatto quello che dice lei a Cruciani, non c'era bisogno che chiamavo. Io comunque sto chiamando per te, Parenzo, no per Cruciani. Giusto, lei ti ha proposto una cosa interessante, gratis. Molto interessante. Un pompino più dopo l'esperienza del pissing, tutto gratis e privacy. Tutto gratuito. No, ma Simona, gratuito, minimo 500 euro. Simona, diglielo, poi tra l'altro privacy assicurata, cioè non è ma certamente privacy assicurata. Certo, dopo averlo detto alla radio senza ombra di dubbio, 2 milioni di persone. No, ma lascia perdere. C'è ombra di dubbio, ma lascia perdere. No, ma privacy assicurata, che nel senso che tu dici di no formalmente adesso, dici no, resisti. Ma no, guarda, io ti lascio, guarda, anche questa giornata per pensare. Domani ti richiamo. Ma no. Allora sì o no? Ma è una persecuzione. David, sì o no? No, o no, sì, no, o no, sì, non si capisce, sì, sì, sì, o no? No. Scusa, quanto ci metti a concludere una fellazio con l'ingoio? Mamma mia. No, ma tu puoi essere anche veloce, dici, si può fare anche. Ma certamente, cioè, io comincio con la lingua, faccio tutta una procedura che già lì sei morto. Oh, mamma mia. Fermi tutti, la risposta ancora non c'è, la risposta definitiva non c'è. No. Lo vedi che non c'è, fermi tutti. Sì. No. Guarda, mancano pochi giorni alla fine della trasmissione, devi decidere. Fermi tutti. Che persecuzione. Dall'emergenza Covid al sultano Erdogan, dalla guerra in Libia alla crisi siriana, dallo zar Putin ai ribelli di Hong Kong, immigrazione, politica internazionale, economia, conflitti. Ogni giorno ruotiamo il mappamondo e puntiamo il dito, con storie, analisi, con zoom e grandangolo. Voci dal campo, analisti internazionali e un pizzico di metallo. Sono Giampaolo Musumeci e vi aspetto dal lunedì al venerdì alle 16 con Nessun luogo è lontano. Naturalmente qui, su Radio 24. Cosa resterà di questa emergenza? Siamo davvero cambiati? Anche l'economia delle piccole cose guarda avanti. Tra conti da far quadrare e nuove abitudini da imparare. Sono Anna Migliorati, vi aspetto ogni sabato alle 7:15 qui su Radio 24 per ripartire insieme. Fineco, è tempo di investire con noi. Vi presenta... La Zanzara. E però questo continuo linguaggio d'odio da parte di certa sinistra, e l'attore, lo scultore, il cantante, il professore, l'intellettuale, e Tizio, il merluzzo, il pesce palla, e la sardina, e l'intellettuale, e l'intellettuale, e l'attore, lo scultore. l'attore, il cantante, il professore, l'intellettuale, l'intellettuale, l'intellettuale, l'intellettuale, il tizio, il merluzzo, il pesce palla e la sardina, l'intellettuale. E Salvini è brutto, e Salvini è pericoloso, Salvini è fascista, è razzista, è nazista. E Salvini è brutto, e Salvini è pericoloso, Salvini è fascista, è razzista, è nazista. È razzista. No time to rest. È nazista. Grande Matteo Salvini. È razzista. What you hear is not a test. Nazista. Simona. Clemente, qui è un aggressivo zainone. Ma la domanda vera e propria è: ma Master Sean e le sue slaves, che fine hanno fatto? Come ha passato la quarantena Master Sean? La zanzara non può chiudere, è una panacea per tutti i mali ed amplifica il godimento. Io la sento quando scopo e la sento quando sono depresso. Quando scopo mi fa venire, quando sono depresso mi fa ritornare normale. All'attacco, all'attacco! Cruciani, ma come i peli sui capezzoli sono una rarità? Ma ti sei fatto prendere per il culo fino ad oggi da tutte le donne con cui sei stato? Ma guarda che crescono dei pelazzi neri intorno al chiodone che non hai idea. Allora scusa, vogliamo parlare anche dei peli sulle dita dei piedi delle donne? Quelli cosa facciamo? Li lasciamo o li togliamo? Dai, dai, dai che mancano due puntate, facci sapere. Bravo, bravo. C'è ancora per noi l'ingegner Negri. Vai con l'ingegnere, vai, vai, vai. No, la mascherina noi non la metteremo più, perché è il simbolo dell'oppressione. Noi il primo agosto le bruceremo da tutte le parti, perché basta, è ora di finirla. Non c'è il popolo che è d'accordo con il ministro. Quello vuole far sperimentare i vaccini agli italiani obbligatoriamente, è chiaro? Quello vuole le deportazioni. Ci saranno i bimbi che verranno presi dalle scuole, portati via se daranno un colpo di tosse, e i genitori non li vedranno. Ma che dice Negri? I bambini che verranno portati via. Poi uno, bah, vai. Se uno risulta positivo, e poi il fatto di risultare positivo è qualcosa di manipolabile, viene portato nelle loro strutture, lo vanno a cercare casa per casa e poi lo allontanano, lo portano lì, lontano dai familiari, le deportazioni, i forni crematori. Ma è pazzo, ma questo è. Mamma mia, ragazzi. Si può andare a sentire, cioè siamo a questi livelli. Questi non sono giornalisti, questi non sono niente, questi sono solo dei ciambellani del potere che devono per noi, forza andare a reprimere una voce che è contraria. Ce l'ha con noi, ma in realtà ne abbiamo sempre fatto parlare, ci abbiamo sempre diffuso urli e torbi tutte le cazzate che dice. No, è grave, infatti la gravità è che siamo gli unici ad avere, io voglio autodenunciarmi, vado in questura oggi pomeriggio, stasera alla fine della trasmissione, perché siamo stati gli unici, tu sei stato, io purtroppo sono qui complice, dico no ma rimango qua, quindi sono complice, arrestatemi, perché io ho contribuito a diffondere queste porcherie. Dillo alla Digos. Ma certo, vado alla Digos, dico per piacere, potete chiudere. Cioè, scusi, lei chi è? Sono Parenzo. Ma lei non è uno di che la... Sì, dico, la co-conduco anch'io. E allora cosa vuole da me? Arrestatemi. Dice, perché? Sono venuto a costituirmi. Vengo a costituirmi, amici della Digos. Vengo a costituirmi. E non ti insultano neanche direttamente, ti insultano con la voce fuori campo dopo che ti hai lasciato l'intervista. Comunque, io non avrò mai più niente a che fare con questa gente. l'Italia che vogliono, l'Italia distrutta, l'Italia volgare, l'Italia senza più niente, senza più valori, è rappresentata dalla trasmissione La Zanzara. Lo vedi, però qui è d'accordo con te, cioè qui è d'accordo con te, lo vedi che c'è l'incontro, lo vedi che qui è d'accordo con te. Incredibile questa cosa qua. Lui dice l'Italia senza valori, che poi non si capisce bene quali siano i suoi, è rappresentata, sì, è rappresentata dalla Zanzara. È una cosa, guarda, sei incredibile, sei persino nella tua no, nel tuo essere contraddittorio, sei d'accordo con Negri, cioè sei d'accordo con l'ingegner Negri. Alla fine sì, mi denuncio anche per questo. Io mi denuncio anche per questo. Matteo da Bologna. Comunque è incredibile come tu ancora non hai detto sì o no alla proposta di Simona. La proposta di Simona è chiara, diretta. Chiara, diretta, ancora tentenni. Ma tira fuori i coglioni anche in modo come di plastico. No, come te lo devo dire? Sì, Matteo, no, lo vedi che sei incerto, Matteo, dai. Ma Matteo, è la corte che schiaccia l'audio dove viene fuori il mio. Avete tagliuzzato i miei audio e diffuso voci non mie. Non c'è una risposta chiara, Matteo, dimmi. Ciao Bruciani, ciao. Dimmi. Ti chiamavo dopo che qualche giorno fa ho sentito quel camionista ignorante, arrogante, che minacciava un automobilista di schiacciarlo sul New Jersey, sì, 2-3 giorni fa. Sì, allora? Il sottoscritto è stato schiacciato sul New Jersey da un camionista. Autostrada. Vabbè, quello però è una roba di denuncia, amico mio, no? Cioè... No, è la cosa molto più bella. La testa di minchia durante il nostro duel, come dice Parelli, era proprio duel da 10 chilometri con una coda infinita di auto dietro. Cioè, avete fatto un duello praticamente. Un duello. Ma anche tu allora non sei tanto. No, ma io ero dietro passivo, assolutamente. Ok? L'ignorante arrogante ha chiamato la polizia nel mentre che lui stava facendo tutto questo. Dopo si è messo tranquillo, io ho sorpassato insieme ad altre macchine, allora? Mi ha schiacciato con New Jersey, mi sono fermato con un sacco di altre macchine. E allora che è successo poi? È arrivata la polizia che cercava la mia targa dell'auto, sì, perché aveva la segnalazione fatta telefonicamente dal nostro amico camionaro. Io avevo la registrazione sul cruscotto, quando la polizia ha visto in sede poi assicurazioni, processo, eccetera, ha visto il video, il signore ha perso la patente, tentato omicidio. Vabbè, ma come li consideri i camionisti in generale? Delle teste di cazzo. Ah, così, delle secco. Teste di cazzo. Sì, rispetto il loro lavoro, perché fanno Salvatore lavoro, da Como, aspetta un attimo, Salvatore, ci sei? Ciao Cusciani. Dimmi. Hai sentito Matteo che ha detto? Ma a me mi dispiace quello che dice Matteo, però se lui parla in generale, io in generale dico che gli automobilisti sono degli stronzi e delle teste di cazzo anche loro. Perché purtroppo le pecore nere ci sono dappertutto. Noi rischiamo grosso se facciamo un incidente, fino a 18 anni di galera, dobbiamo stare attenti a non bere il vino, a non farsi neanche una cannetta. Vabbè, pure gli altri, una vita di merda. Pure gli altri. E allora, se mettiamo il video. Però è sempre tentato omicidio. E voi sul camion? Ascolta, io condivido che ci sono i testati cazzi in giro con i camion, perché anch'io li becco. Però non puoi fare tutto un fascio. Io a 20 anni di carriera ho il massimo dei punti e ringraziando a Dio, bacio a terra, non ho mai fatto un incidente. Se tu dici in generale gli autisti sono così, offendi anche me che faccio il mio dovere. Ho detto che rispetto la categoria, perché ho capito, rispetto la categoria. Amico mio, hai detto che sono delle teste di cazzo, dai su. Tu hai detto rispetto il lavoro dei camionari, però gli autisti sono delle teste di cazzo in generale. Giusto. Non rispondere così, Matteo, mi dispiace. Ciao amico mio. Gianluca da Roma, vai Gianluca, dimmi. Gianluca, ci sei o no? Come no? Eccoci qua, buonasera. No, a viva voce, auricolare, le cose peggiori che si possono fare. Ho tolto tutto, scusate, stavo messo. Dimmi, Gianluca, dimmi. Niente, ti volevo dire, praticamente Parenzo prima ha detto una cosa vera. Cioè? Stranamente. Cioè? Sì, la mafia del Brenta c'era stava in Veneto e via dicendo. Ma vabbè, allora? Però ce n'era solo uno, poi non c'è stato più. Vabbè, dunque, ragazzi, però non è che possiamo essere d'accordo con Martinelli quando dice che c'è un problema della gente che viene dal sud. Dai, su, no, ma che roba è? Riconosci le peggio cose, tutte le organizzazioni vengono tutte da là. Ma cosa vuol dire? Non è che c'è un problema etnico, ma non è che c'è un problema. Ma no, non è un problema, è un problema proprio che. No, io non sto generalizzando. E allora punto e basta, che vuol dire? E allora? Però non vuol dire niente, non puoi dire che non è vero. Davide, provincia di Pavia, Davide, provincia di Pavia, vai Davide, dimmi. Crucio, finalmente parliamo di cose serie. Volevo parlare del mio pene maculato. Non ho capito, hai un pene maculato? Sì, praticamente è la conseguenza del fatto che ho la vitiligine, è un problema della pelle. Vabbè, e che problemi ti comporta questa roba, il pene maculato? No, non è per niente un problema, anzi è un vantaggio perché riscuote un successo incredibile. Sì, adesso il pene maculato riscuote successo, ma la gente che cazzo gliene frega se è maculato o non è maculato, scusa Davide. E certo che interessa, perché nel momento in cui ne parli... crea l'interesse. Come, cioè, tu dici maculato. La curiosità di andare a vedere, la curiosità, dici? Di vederlo. Poi... Ma com'è maculato questo pene? Scusami. Praticamente la vitiligine comporta che in alcuni punti del corpo. Ma anche non il glande? Ho sì, ma questo l'ho capito. Ma anche il glande è maculato, no? No, solo la pelle intorno. La pelle, però. Ma è molto maculato. Com'è? Anche... A macchie, com'è? Sì, a macchie, come se fosse la mucca. Tipo, no, ma questo l'ho capito. So che cos'è la vitiligine, voglio capire. Sono esattamente. Macchie bianche su tutto, sì, ma esattamente. Sì, ma esattamente come? Cioè, questo è il punto. Cioè, c'è vitiligine e vitiligine, c'è una macchia estesa, ci sono piccole macchie. Com'è il pene? Cioè, ma sono 3 o 4 macchie abbastanza estese. E tu dici, le donne sono curiose. Una volta che tu lo dici, sono curiose di andare a provare. Esatto. Perlomeno di vedere, poi sarà, provare un altro sarà. Discorso. Cioè, tu stai dicendo che nella tua vita questa cosa qua, che di solito è uno svantaggio, perché non è una cosa bella, diciamo, no? Uno preferisce, dice, uno ci sa convivere. Ho capito, se uno dovesse scegliere, non è che dice sì, va bene la vitiligine. No, se tu potessi scegliere, probabilmente non ce l'avrei. No, decideresti di non averla, no? Preferiresti non averla. La curiosità di cui parlavamo prima. La curiosità comunque c'è. Era evidente. Vabbè, poi ma questo va bene. Adolfo, provincia di Firenze. Vai, Adolfo, dimmi. Ciao Luciani, ciao Lorenzo. Dimmi. Voglio dimmi. Parlare serio. Dimmi. Io mi rivolgo verso i ciclisti. Io sono camionista e mi trovo nelle strade in corsia e per rispetto scorro anche 500, 600 metri, un chilometro dietro a loro, andando a 30, 40, quello che è. Li sorpasso al momento giusto, standone a distanza. Sì. Nonostante tutti questi coglioni, quando arriva all'incrocio ti ripassano tutto avanti e andare a fare la stessa della fila. Cioè, allora, tu dici che alla fine questi qua rompono i coglioni, ce lo fanno apposta, cosa fanno? No, non che lo facciano apposta, non lo credo. Però si sentono padroni, della strada, si sentono padroni della strada. Ci hanno detto, noi siamo grossi, si fa padroni della strada. I padroni sono quelli più piccoli, motorini, macchine, biciclette. Sì, però rischiano pure di più, rischiano pure di più. Ma non si rendono conto di quello che rischiano. Fermi tutti, italiani! Italiani! Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7:30, so, alle 8. Lei ha ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Conte, dimettiti!